Letture di Radio 24. Tra i volontari che seguirono Giuseppe Garibaldi nella sua spedizione in Sicilia, ce n'era uno che non figurava nemmeno negli elenchi e che aveva la strana abitudine di gettarsi in mare. Chi era questo 1001esimo garibaldino? Ermanno Cavazzoni ne parla in un articolo pubblicato oggi sull'inserto culturale del Sole 24 Ore. Ho sentito dire che è l'anniversario dell'Unità d'Italia. Anzi, ho sentito dire che finalmente l'anniversario è finito. E tutti si sono sfogati, per cui da dire ci sarebbe rimasto poco. E su quel poco sarebbe meglio soprassedere, casomai tenerlo per il 250enario. Però c'è un piccolo fatto che riguarda l'Unità d'Italia che nessuno ha notato o ha voluto notare. E più precisamente il piccolo fatto è accaduto durante l'impresa dei mille, bellissima avventura sotto ogni aspetto. Ma c'era uno dei mille, forse il 1001esimo, che non la pensava così. Non è un fatto che mi invento. Prendete Cesare Abba. Le due navi sono salpate da poco da Genova. L'impresa è appena cominciata. Quando si sente gridare «Un uomo in mare!» L'uomo, dice Abba, appariva già lontano. Lottava con le onde. «Macchina indietro!» Viene calata una lancia, lo raggiungono, viene ripescato. Dicono sia genovese. L'incidente accade il 6 maggio 1860. Poi le navi fanno sosta a Talamone, in Toscana, e ripartono. E il 10 maggio, scrive ancora Abba, «uno dei nostri si è gettato in mare. Si dice sia lo stesso dell'altra volta. Allora, non è stata una disgrazia. C'è qualcuno che per due volte si è voluto annegare. Lo ripescano. Bixio è furibondo per il tempo perso. Gli tolgono i vestiti bagnati, poi lo chiudono in una cabina con una coperta addosso. Ma come? Uno dei mille, uno partito per questa enorme avventura che nessuno aveva costretto, un volontario che voleva far l'Unità d'Italia, per due volte si butta in mare pur di non andare oltre. Il fatto è raccontato anche da Bandi, ufficiale garibaldino, nel suo bel libro I Mille, un uomo in mare. Si ferma alle macchine, viene calato un canotto, lo riportano a bordo. È lo stesso che si era buttato il primo giorno di navigazione. Gli fanno vomitare tutta l'acqua che aveva bevuto. Dicono che non aveva il cervello sano, aggiunge Bandi, che voleva fuggire, che si lagnava di certe visioni che gli balzavano dinanzi agli occhi. Pure Garibaldi nelle sue memorie lo cita, segno che la cosa ha impressionato tanti. Garibaldi dice che c'era un tale a bordo che aveva la mania di volersi annegare. Per due volte tentò di farlo, ma appena sentiva la freschezza dell'acqua, scrive Garibaldi, cambiava idea e nuotava come un pesce verso i soccorritori. Alexandre Dumas, nella sua cronaca della spedizione, riferisce che questo tale si getta addirittura tre volte. «È vivo?» domandano 500 voci. «Vivo!» risposero dalla lancia. «Bravi!» urlò Garibaldi. «Se fosse annegato sarebbe stata una iettatura». «Non mi invento nulla, sono le parole di Dumas, il grande scrittore. Sul numero forse esagero un po', ma tre volte o due volte...» Più o meno, come si vede, le fonti concordano. Garibaldi dimostra un leggero cinismo. Bandi dice che aveva due grandi occhi da spiritato. Lo chiama pazzacchione. Può darsi lo fosse. Però si viene a sapere che il primo tuffo lo effettua quando si scopre che a bordo ci sono mille fucili, ma non ci sono le cartucce, neanche una. Non sono state imbarcate e non c'è neanche carbone bastante per arrivare in Sicilia. Com'è possibile? Voi direte. È l'approssimazione italiana, che si rivela fin dalle origini. Bandi dice che quel tale si butta perché non aveva cuore di affrontare i nemici. Io dico che affrontare i nemici senza cartucce, non so, l'approssimazione in questo caso forse è un po' troppa. Ci vuole una gran fantasia partire per la guerra con i fucili scarichi, come fossero fucili per finta. A quel punto, con mille scope da cavalcare, si poteva inventare un'armata di cavalleria. Magari i borbonici si impressionavano, essendo napoletani, cioè notoriamente dei fantasiosi. Magari scappavano, anche magari solo per il fatto di vedere mille uomini adulti su delle scope e con delle apparenze di schioppi. Garibaldi in queste astuzie era un mago, nel far credere quel che non era. Perciò è sempre rimasto simpatico, il contrario di un generale prussiano, che calcola tutto, ma poi il mondo non coincide col calcolo. Però nel caso delle cartucce era stato Garibaldi, per la verità, ad esser fregato. Le aveva regolarmente pagate. Dicono avesse tirato sul prezzo e i contrabbandieri di Genova non le hanno consegnate. E, dice Bandi, nel trasportarle dallo scoglio di Quarto alla nave, in quel poco tratto di tempo, avevano notato un altro a cui venderle, doppio profitto. È incominciata così l'Unità d'Italia, con un giro di piccole truffe. Quindi se c'era a bordo una mente razionale, che vedeva l'impresa con occhio lucido, io credo che si sarebbe gettato. Tenuto anche conto che senza carbone non si va lontano, anzi si naufraga, o si è preda delle navi nemiche. Garibaldi dice che sarebbe stata una iettatura. Cosa significa? Significa, credo, che se la ragione si fosse impossessata dei mille, cioè se per disgrazia tutti avessero visto con occhio lucido la situazione, avrebbero fatto come quel tipo, si sarebbero gettati, e Bixio e Garibaldi, in due, chissà se sarebbero riusciti a fare l'Italia. Però la storia andò diversamente. Garibaldi era un grande improvvisatore e inventore, e risultò così che quel singolare personaggio, quell'anomalo garibaldino, aveva torto. Ma non sono mai riuscito a sapere chi era, se per caso aveva tenuto un diario, come Cesare Abba. Tutto però disfattista e all'incontrario. Mi sono imbarcato in una pazzia, qui nessuno ha il cervello a posto, è la nave dei folli, si grida all'unità, unità di che cosa? Invece nulla, non un rigo, nessuna dichiarazione, non è neppure nell'elenco dei mille, anche se è sicuro che nell'impresa c'era, però dico che a suo modo è stato un eroe, l'eroe solitario delle cause perse. C'è qualcosa in lui di affascinante e disperato, che ha a che fare con i deliri umani, solitari e collettivi. Arrivati in Sicilia, l'hanno consegnato al sindaco di Salemi e chiuso nella casa dei mentecatti. Costui, di tutto il processo d'unificazione, è stato il perdente assoluto, perché le truppe borboniche hanno perso, ma bene o male si sono riciclate. Bandi racconta che durante il parapiglia della battaglia di Calatafimi, un sergente di parte borbonica, alto e rosso di capelli, gli aveva sparato da pochi metri, l'aveva ferito e quasi ucciso. Poco tempo dopo, mentre marciavano vittoriosi verso Messina, era tornato a incontrare questo sergente alto e rosso, ma era passato alle truppe garibaldine, e come lui tanti altri, che erano inoltre stati promossi ufficiali. Così va il mondo, anche se è doloroso comprenderlo. Il nostro povero garibaldino era stato promosso da iettatorio a ridicolo. Ecco, eroe del ridicolo. D'altronde i mille sono una cifra tonda, epica. «Salve o falange di gagliardi, o mille guerrieri venturosi», scrive Garibaldi nel suo poema autobiografico. Che numero avrebbe mai potuto essere 1001, se non un numero che guastava l'epica e la rendeva fiaba? Però in questa sua irriducibile nullità, in questa sua comica inesistenza, quel garibaldino, io dico che giganteggia. Bisognerebbe fargli un monumento, però a rovescio. Un enorme piedistallo di marmo che spiaccica sotto di sé un piccolo individuo in bronzo, come se fosse di pasta sfoglia. Al 1001 ignoto, la patria matrigna pose. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Ermanno Cavazzoni dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Che senso ha la nostra vita? Analizzando le soluzioni che nel corso dei secoli sono state proposte da filosofi e letterati, Terry Eagleton cerca di dare una sua risposta, basata sull'idea che il senso della vita non stia soltanto nella ricerca della felicità, ma anche nell'amore, inteso come possibilità di condividere e realizzare progetti assieme agli altri. Il senso della vita non rappresenta una soluzione a un problema. Piuttosto consiste nel vivere in un certo modo. Non è un problema metafisico, ma etico. Non è qualcosa di separato dalla vita, ma ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Vale a dire, una certa qualità, profondità, abbondanza e intensità di vita. È l'amore, allora, il senso della vita? Sicuramente, l'amore è stato il candidato favorito per un gran numero di fini osservatori, non ultimi gli artisti. L'amore somiglia alla felicità nel suo essere un termine ultimo, e un fine in sé. Come la felicità, l'amore sembra appartenere alla nostra natura. Noi siamo per natura, ad esempio, animali sociali, i quali devono cooperare per non morire. Ma noi siamo del pari esseri individuali che cercano il proprio compimento. Ciò che chiamiamo amore è il modo in cui possiamo riconciliare la nostra ricerca di un compimento individuale con il fatto di essere animali sociali. L'amore, infatti, significa creare per l'altro lo spazio in cui egli possa svilupparsi, mentre contemporaneamente l'altro fa lo stesso per noi. Il compimento dell'uno diventa la condizione per il compimento dell'altro. Quando realizziamo le nostre nature in questo modo, siamo all'apice di noi stessi. Ciò è dovuto in parte al fatto che realizzare se stessi, in modo da condurre gli altri a fare lo stesso, evita omicidi, sfruttamento, tortura, egoismi e altre cose del genere. Nel danneggiare gli altri, a lungo andare, finiamo per danneggiare la nostra stessa realizzazione, la quale dipende dalla libertà dell'altro di parteciparvi. E siccome non può esserci vera reciprocità se non tra pari, oppressione e diseguaglianza rappresentano, sul lungo periodo, solo un ostacolo. Tutto ciò contrasta con il modello di società liberale, per il quale è sufficiente che il mio sviluppo individuale sia salvaguardato dalle interferenze che possono provenire dall'altro. L'altro non è in primo luogo ciò che mi conduce all'essere, ma una potenziale minaccia al mio essere. Prendiamo un'immagine di vita virtuosa, un gruppo jazz. Un gruppo jazz in una jam session è chiaramente diverso da un'orchestra sinfonica, poiché ogni membro è per lo più libero di esprimersi come preferisce. Tuttavia, ogni musicista suona con una sensibilità che è ricettiva verso il modo in cui gli altri musicisti si esprimono. La complessa armonia che si crea nasce non tanto dal suonare uno spartito comune a tutti, quanto piuttosto dalla libera espressione musicale di ognuno dei membri, che agisce come base per la libera espressione degli altri. Man mano che cresce la vis musicale di ciascun musicista, gli altri, traendone ispirazioni, sono stimolati a raggiungere vette più alte. Non vi è conflitto in questo caso tra libertà e bene comune. Anzi, quest'immagine è il rovescio del totalitarismo. Ciascun musicista, così, contribuisce al bene comune, non sentendolo come un sacrificio forzato, bensì semplicemente esprimendo se stesso. Vi è realizzazione di sé, ma solo attraverso una perdita di sé nella musica intesa come un tutto. Vi è il conseguimento di un risultato, ma non è una questione di successo e autoesaltazione. Invece, il risultato, cioè la musica stessa, agisce come un medium nel rapporto tra i vari componenti. Vi è un piacere da trarre dall'abilità artistica, e poiché vi è un libero compimento o realizzazione delle proprie facoltà, vi è anche felicità in quanto accrescimento di sé. E siccome tale accrescimento è reciproco, possiamo addirittura parlare, in senso lato e analogico, di una sorta di amore. Non sarebbe male, certo, proporre una tale situazione come senso della vita, sia nel senso in cui è ciò che rende la vita significativa, sia, in maniera più controversa, nel senso in cui, quando agiamo in questo modo, noi realizziamo la nostra natura al suo apice. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Terry Eagleton, Il senso della vita, una introduzione filosofica. Ponte alle Grazie Editore, 160 pagine, €15.